Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Anche oggi la puntata si dividerà tra tensioni internazionali sui mercati, e quindi Grecia, Portogallo oggi soprattutto, e borse che stanno girando, Milano in primo luogo in negativo. E l'altro grosso tema della giornata riguarderà l'occupazione. Avremo un'intervista ospite in diretta, il ministro welfare Sacconi nella seconda ora del programma per parlare delle vicende soprattutto Alcoa e Glaxo, stabilimento dei ricercatori Glaxo a Verona, e Alcoa significa Porto Vesme e Fusina, ma anche per capire insomma quale sia la linea del governo di fronte a scelte che arrivano e vengono prese da multinazionali presenti nel territorio. Quindi l'occupazione in primo luogo, ma di occupazione parleremo anche in apertura. Perché, lo dico con il massimo del rispetto, esiste un problema di occupazione anche tra i manager. Io so che quando uno dice manager, uno pensa subito ai manager, magari delle banche d'affari che distribuiscono, come spesso abbiamo ricordato, milioni di dollari o di euro di bonus, senza nessun rispetto, delle volte anche per i risultati, perché quello che sta succedendo. Però, in realtà, sotto la categoria manager ci sono in Italia decine di migliaia di dirigenti, perché il nome corretto sarebbe questo. Beh, dirigenti sono circa 80.000 quelli in servizio in Italia. Pensate che l'anno scorso hanno perso il lavoro, cioè licenziati, nei primi 8 mesi, 7.000 manager, e il 40% in più dell'anno prima, 5.000 licenziati solo nell'industria, quindi dirigenti di stabilimenti, e 2.000 nel terziario. Ora, siccome tutti i lavori hanno pari dignità, così come ci occupiamo spesso, direi quotidianamente, dei dipendenti, degli operai, dei gruppi che mettono le persone in mobilità o addirittura chiudono gli stabilimenti o minacciano di chiudere gli stabilimenti, oggi ci occuperemo anche di questi quasi 10.000 manager a questo punto che hanno perso il posto di lavoro, dirigenti. Anche qui, attenzione, prima di scrivere, gli stipendi non sono sempre quelli da favola, anche perché sono tutti stipendi in cui le tasse vengono trattenute in busta paga, non sono stipendi da miliardari, poi, vista l'evasione che c'è in questo paese, non arriva sicuramente da lì, e la situazione, il fenomeno è così grave che si è creata addirittura un'associazione di manager o dirigenti che hanno perso il posto di lavoro e non hanno il coraggio di dirlo in famiglia, e si riuniscono e si incontrano ogni giorno, ogni settimana, per così fare quasi terapia di gruppo, se vogliamo, siamo a questi livelli. Detto ciò, parleremo della borsa: meno 0,6% Milano, meno 0,3% Francoforte, meno 0,4% Parigi. Stanno girando tutte negative le borse europee, stranamente, perché insomma si mantenevano sopra la parità lungo tutta la giornata. L'America poi è positiva di uno 0,80%, quindi il problema, tra virgolette, è europeo. Londra resta ancora positiva, più 0,6%. Mentre il rapporto euro-dollaro è 1,37. Tra i titoli, chi va peggio oggi? Non ci sono degli scossoni fortissimi. Mondadori perde dal peggiore, nell'S&P MIB perde il 2,6, Exor il 2,5, ancora perde ST Microelectronics il 2,3%, Fiat il 2,2 come CIR, Intesa il 2%, Buzzi meno 1,90, Unipol meno 1,5 come Bulgari e UbiBanca. L'1,3 lo perde l'automatica, l'1,1 Italcementi, l'1% Campari Generali e A2A. Chi guadagna? Telecom Italia, di nuovo le ipotesi, oggi indiscrezioni di vari organi di stampa che ipotizzano già entro fine mese l'operazione di Telefonica su Telecom, cioè l'offerta di Telefonica per acquisire il controllo di Telecom Italia. Più 3,2% a 1,08 euro, Autogrill più 1,80, Pirelli più 1,3, Tenaris più 1%, Impregilo più 0,80%. Migliori e peggiori: risanamento, il miglior titolo più 9,9, Pramac più 9, peggior titolo Biosfera meno 9%, e poi Safilo meno 5,3, Ratti meno 5,4%. Ultimo numero, quello per i vostri sms, 349-238-6666. Subito le notizie in breve. Dimenticavo un altro tema che tratteremo oggi, il primo bilancio di quanti italiani abbiano chiesto la sospensione, utilizzato l'offerta della sospensione del mutuo, delle rate del mutuo, oggi il primo bilancio dell'ABI e chiaramente anche i temi di economia internazionale. Ci mancherebbe, partiamo subito dal petrolio, apre sopra i 72 dollari al barile, ma quello che è successo poco fa ed è il motivo per cui le borse stanno girando in questo modo, almeno uno dei motivi, è un giudizio molto molto preoccupato da parte di una delle principali agenzie di rating, quelle che danno il voto ai debiti dei vari paesi. Mi riferisco a Standard & Poor's, che ha detto i rating, i voti sul debito dei paesi dell'area euro quest'anno hanno decisamente tendenze al ribasso. Quindi vede al ribasso tutti i voti. Questo poi non sappiamo che cosa voglia dire nei singoli casi, quindi il debito italiano piuttosto che il debito spagnolo o quello francese. Però, insomma, il giudizio è pesante. Crediamo che il calo, continua Standard & Poor's, della domanda esterna da parte di partner commerciali fondamentali stia avendo conseguenze pesanti sulle capacità di paesi come la Grecia, la Spagna e il Portogallo di ritornare su un sentiero che conduca verso una stabilità macroeconomica. Questo è il testo del comunicato che ha preoccupato evidentemente le borse. Per fortuna non c'è l'Italia in questo elenco, l'avete appena sentito, Grecia, Spagna e Portogallo, ma insomma, visto che tutti apparteniamo all'area euro, resta una preoccupazione complessiva per l'Europa. Tant'è che questa mattina il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha anticipato il suo rientro dall'Australia. Vuole infatti essere presente al Consiglio Europeo di giovedì, in cui si parlerà della crisi greca e degli attacchi contro l'euro, attacchi insomma speculativi in questo caso. Il rientro però, come sempre, ha creato anche voci, rumors. C'è chi ha detto ecco, Trichet torna prima perché alcuni hedge fund hanno costruito posizioni speculative ribassiste sull'euro, cioè c'è chi sta scommettendo che l'euro continuerà a perdere per via della debolezza di Spagna, Grecia e Portogallo. Un valore, tra l'altro, le vendite allo scoperto, come ha scoperto il Financial Times, hanno raggiunto la cifra iperbolica di 8 miliardi di dollari, cioè di persone che stanno scommettendo senza avere in mano il contratto, ma in maniera appunto allo scoperto, stanno scommettendo su un continuo ribasso dell'euro. Qualcuno è arrivato a ipotizzare che la Banca Centrale Europea debba tenersi pronta per possibili interventi a sostegno della Grecia e della Spagna. Però attenzione, perché anche su questo è intervenuto uno dei membri della Banca Centrale Europea, Ewald Nautney, che ha detto la Banca Centrale Europea non può intervenire per aiutare la Grecia perché il suo statuto lo proibisce. Voglio dire, lo statuto lo proibisce, però insomma questa crisi anche non era prevista dalla Banca Centrale Europea, e così come sono saltati i parametri di Maastricht, forse anche la BCE potrebbe essere un po' meno rigida e rassicurare i mercati che qualunque cosa capiti a un paese membro dell'euro, nulla capiterà all'euro stesso e alla tenuta del sistema monetario. E infatti ci si attende che dal vertice di giovedì tra i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea arrivino messaggi molto rassicuranti per frenare ogni tentativo di speculazione sull'euro. E poi però ci ha pensato il commissario agli affari economici e monetari Joachim Almunia poco fa ad aumentare la tensione. La situazione in Grecia presenta seri rischi di contagio ad altre parti della zona euro e vedo già che alcuni... vogliamo esorcizzare Almunia con il nostro animale... con il nostro animale preferito per quello che riguarda la dichiarazione che ha fatto, anche perché Almunia ha continuato dicendo c'è una situazione senza precedenti nella zona euro, la stiamo però affrontando, c'è il rischio di contagio con altri paesi e di tutte le sfide economiche e i conti pubblici che deve affrontare la Grecia preoccupano, ha continuato Almunia sempre circa mezz'ora fa, e quindi su questo insomma obiettivamente non facciamolo partire il gufo che poi parte male tutto il programma. Andiamo avanti col resto, ho cambiato idea. Allora, Unione Europea, José Manuel Barroso ha sostenuto, il Presidente della Commissione Europea, l'euro continuerà ad essere uno strumento fondamentale per lo sviluppo europeo e coloro che ritengono che può essere messo in discussione dovranno vedere che l'Unione Europea va avanti per la sua strada. Ne parleremo comunque anche nei mercati. Ultime due notizie sulla Toyota, ha richiamato altre 223.000 auto ibride in Giappone e ha richiamato complessivamente 436.000 auto ibride nel mondo, 150.000 in Nord America e 213 appunto nel resto del mondo, 2.500 le Prius coinvolte dal richiamo in Italia. Sul settore auto ancora però, ne parleremo più avanti, la Opel annuncia e ha annunciato che ci sono 8.300 esuberi in Europa, 7.000 in attività produttive e 1.300 in quelle amministrative e secondo la stampa tedesca General Motors chiederà 2 miliardi e 700 milioni di euro di aiuti dai paesi europei, mentre per gli incentivi auto si va a un confronto a Bruxelles il prossimo 19 febbraio. Per quello che riguarda invece gli incentivi auto italiani, un primo giro di tavolo sul cosiddetto decreto incentivi potrebbe essere già domani mattina al centro dei lavori del Consiglio dei Ministri, che appunto si terrà in tarda mattinata a Palazzo Chigi. E però oggi il ministro Scajola ha detto: attenzione, gli incentivi del governo si concentreranno quest'anno su settori diversi dall'auto, l'ha detto 20 minuti fa. Oggi è una puntata in cui tutte le notizie arrivano proprio a ridosso del programma. Ha detto infatti Scajola: credo che sia opportuno quest'anno dare incentivi ad altri settori che hanno bisogno di essere spinti e non all'auto. Va bene, passiamo al primo tema della puntata e mi riferisco al, chiaramente al tema annunciato, i 7.000 manager che hanno già perso il lavoro, dirigenti, chiamiamoli dirigenti così non ne facciamo solo dei paperoni miliardari. E poi le formule che stanno adottando per così, per quasi di autostima, corsi di autostima per non andare in crisi psicologica oltre che in crisi economica. Allora, vedo già dei messaggi un po' polemici. I manager, quando è che vi occuperete dei miliardari, quando è... Ripeto, lo stipendio medio di un dirigente in Italia, dati ODM Consulting, è di 100.000 euro lordi l'anno, che vuol dire che c'è chi ne guadagna molti, molti di più e c'è anche chi ne guadagna di meno. Ora, se vogliamo dire che 70.000 euro lordi l'anno sono un buono stipendio, siamo d'accordo. Se vogliamo dire che è uno stipendio da ricchi, con tutta la tassazione che viene caricata sopra, invece non la pensiamo allo stesso modo. E lo dico a chi scrive, dopodiché a mio avviso chi perde il lavoro ha la stessa dignità, non che se lo perde solo l'operaio dipendente bisogna parlarne, se lo perdono 7.000 manager non bisogna parlarne. Sono 80.000 i dirigenti in servizio, di cui 5.500 donne. Allora vorrei sapere che cosa sta succedendo e quindi ringrazio per averci raggiunto in collegamento. Da un lato Giorgio Ambrogioni, presidente di Federmanager, rappresenta 180.000 tra dirigenti in servizio e in pensione. Buonasera Presidente. Buonasera. Buonasera e grazie anche a Chiara Bonomi, che è presidente e ideatrice di Un Breakfast. Buonasera. Buonasera a voi, sì. Che è una cosa, ne parliamo, particolare, per cui avete deciso di, anche per chi perde il lavoro, di continuare a incontrarsi per non cadere in depressione, non perdere proprio il legame che unisce al mondo del lavoro. Sembra quasi una terapia di gruppo più che un incontro tra dirigenti. E grazie anche a chi si occupa dei manager del terziario, quindi non solo l'industria ma anche il terziario, visto che, come dicevo prima, di 7.000 posti di lavoro che sono saltati, 5.000 riguardano l'industria ma 2.000 riguardano il terziario. Grazie a Giuseppe Truglia, presidente del centro di formazione dei manager del terziario. Buonasera. Buonasera, grazie a lei. Buonasera. Costituito da Confcommercio e Manager Italia. Allora, presidente Ambrogioni, intanto la fotografia. I numeri che ho dato peccano per difetto? Assolutamente sì. Eccoci. Per quanto riguarda il nostro settore, nel 2009 a consuntivo abbiamo raggiunto purtroppo le 9.000 unità di dirigenti espulsi dal ciclo produttivo, e parliamo di dirigenti lontani dall'età pensionabile e quindi persone che hanno bisogno assoluto di rioccuparsi e quindi scontano le difficoltà di un mercato in grossa difficoltà. Tenga presente che in questi ultimi 5 anni, soltanto nel settore industriale, i manager atipici, cioè i dirigenti atipici che sbarcano il lunario facendo i coccopro, sono circa 35.000 storie professionali che abbiamo l'obbligo di aiutare a tornare nel ciclo produttivo a vantaggio prevalentemente delle piccole e medie imprese. Quindi lei sta dicendo che sono già 9.000, scusi perché è importante il dato, 9.000 come manager, di Federmanager, cioè dei vostri... Dell'industria. Ahia. Quindi da 5.000 dei primi 8 mesi del 2009 siamo già a 9.000 come bilancio. Esatto. Allora chiederei a questo punto anche un elemento a Giuseppe Truglia. Anche voi notate un aumento rispetto alle cifre che io ho dato, 2.000 manager? No, direi che per quanto riguarda il 2009 sì, abbiamo chiuso con una quantità superiore. Devo dirle che solo a Milano, noi in tutta la Lombardia abbiamo avuto l'anno scorso il doppio del 2008, perché come giustamente ha posto lei il problema, non è una questione di categorie o di numeri, rispetto alle migliaia e migliaia di posti di lavoro persi da altri lavoratori, questi numeri sembrano piccoli, ma se le dico che pure nella forte Lombardia abbiamo avuto il doppio dell'anno precedente, è chiaro che cominciamo a fare delle considerazioni diverse. In ogni caso i numeri sono quelli che ha detto lei, insomma, certamente numeri importanti. Allora, per quello che riguarda la domanda che vedo più frequentemente arrivare, al di là della polemica, i manager tanto hanno soldi da parte, occupatevi degli operai. Lo facciamo ogni giorno, non ne voglio più parlare, se anche parliamo di altre categorie professionali abbiate pazienza. Al di là di questo, molti chiedono, ma insomma non è che sono stati espulsi per inefficienza, cioè, ma voglio dire, la crisi può portare sicuramente a una riduzione dell'attività produttiva ingiustificata, perché insomma è una crisi esterna, ma non è che andasse male l'impianto, vedi il caso della Glaxo, dei ricercatori della Glaxo di Verona. Oppure però può portare anche a tagliare dei rami che erano secchi e venivano mantenuti in vita solo perché ce n'era per tutti. Vorrei sentire su questo sia prima Ambrogioni come Federmanager e poi Truglia come CFMT. Ambrogioni, sì, cioè voglio dire, alcuni hanno perso il lavoro perché lo stabilimento, perché erano inefficienti, un po' come quando la Fiat dice attenzione Termini Imerese ci costa troppo, dobbiamo chiuderla. Non si può fare solo questo ragionamento sugli operai e non sui dirigenti. Sì, intanto una battuta rapida. A me dispiace che gli ascoltatori stiano mandando dei messaggi del tipo che lei ha riportato. Non tutti, alcuni. Alcuni. Però questo è un problema serio. Ci fa male, come organizzazione di rappresentanza, registrare questo tipo di giudizi superficiali, generici, e soprattutto perché c'è una percezione sbagliata, profondamente sbagliata, di chi sono i dirigenti d'azienda. Non sono ricchi, l'ha detto già lei, sono persone che rischiano il posto tutti i giorni, paghiamo le imposte fino all'ultima lira, siamo persone che sono diventati dirigenti per merito. L'80% dei dirigenti industriali viene da famiglie del ceto medio, quindi non è una casta, quindi bisogna ribadirlo con fermezza. Detto questo, non c'è dubbio che una parte dei dirigenti espulsi possano essere provenienti da aziende, diciamo così, decotte o dirigenti che non hanno meritato il ruolo a cui sono stati chiamati, ma la stragrande maggioranza, perché molti li conosco, sono fior di professionisti d'azienda che vengono espulsi perché alcuni multinazionali stanno delocalizzando dall'Italia, alcuni settori dell'indotto sono entrati in crisi profonda, tipo l'automotive per esempio, c'è tutto il farmaceutico, c'è l'informatica, ci sono le telecomunicazioni, quindi sono settori in crisi che buttano fuori gente brava, ingegneri, uomini del marketing strategico. Questa è una dispersione di competenze che questo paese non si può permettere. L'83%, sì, finisco con un dato, prego, delle aziende aderenti a Confindustria ha meno di 50 dipendenti. Queste aziende stanno comprendendo finalmente che la loro competitività passa attraverso una collaborazione stretta tra bravo imprenditore e bravo dirigente. Abbiamo l'obbligo morale di riorientare queste persone e portarle verso il mondo delle piccole e medie imprese. Allora, vorrei sentire su questo appunto anche chi, visto che lei parla a nome dei manager, dei dirigenti di azienda, di imprese, manifatturiere, di imprese, e quindi per favore non diciamo che la colpa di questa crisi nasce dalle imprese, perché proprio abbiamo vissuto un altro film, e vorrei sentire invece anche Truglia, che conosce le situazioni dei dirigenti di società dei servizi, anche lì abbiamo visto l'espulsione non così alta, non siamo al quota 9.000, ma comunque arriviamo tranquillamente a 3.000. Se anche lei ritiene che ci sia stato un taglio così fisiologico perché c'erano dei rami secchi, oppure sono tutte espulsioni giustificate solo dalla crisi ma non dalle abilità, dalle capacità? Allora, diciamo che sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Ambrogioni su tutti i temi che ha posto. Quello che voglio dire in termini di specificità del nostro settore terziario commercio è che, a differenza dell'industria, continuiamo a mantenere le posizioni. Diciamo, questo è un fatto importante e specifico del nostro settore. Sulla domanda che lei ha posto, ma vanno via proprio soltanto quelli che sono negativi, direi che oggi finalmente possiamo dire purtroppo che non è così, perché non è che vengono espulsi coloro che non fanno i risultati, ma purtroppo per le ragioni organizzative che anche Ambrogioni ha citato prima, ormai succede di tutto: aziende che chiudono, aziende che delocalizzano, ed office che si spostano all'estero. Quindi noi abbiamo espulsioni da parte delle aziende di persone di ogni tipo, non soltanto quelli negativi, così come accade per gli altri lavoratori. Prima venivano espulsi soltanto quelli negativi o, come direbbe Brunetta, fannulloni. Adesso purtroppo, per ragioni organizzative, non si guarda in faccia più a nulla, perché il problema è ridurre i costi. Allora, su questo tema, è qui dov'è il nodo, che in passato i manager riuscivano a ricollocarsi perché c'era una mobilità fisiologica, ma continuavano ad esserci opportunità nel mercato e quindi si potevano ricollocare anche se con fatica. Cioè il manager, come diceva Ambrogioni prima, ha dentro la sua fisiologia, nella sua mentalità, il fatto della mobilità. Ma il guaio è che oggi viene espulso, ma non ci sono le opportunità fuori. Sì, questo vale, però, questo vale anche per gli operai, per i dipendenti, i quadri normali. Allora, adesso vorrei ascoltare Chiara Bonomi, così capiamo anche nel concreto. E dico di nuovo ad alcuni ascoltatori al 3492386666. Se c'è una cosa che dovreste conoscere se ascoltate questo programma, è che noi odiamo le posizioni manichee, ideologiche, prevenute. Gli operai tutti buoni, i dirigenti tutti cattivi, i dirigenti tutti geni, gli operai tutti non geni. Allora, è ovvio, come scrivono alcuni, che se si riduce l'occupazione tra gli operai, i dipendenti e i quadri, si riduce anche tra i manager. Ecco perché i dirigenti, ci occupiamo anche di loro. Dopodiché, fermo restando che un dirigente guadagna molto di più di un operaio e di un quadro, sapete tutti che nel mondo dell'industria la cassa integrazione si applica ai dipendenti, ai quadri e agli operai, non si applica ai dirigenti. Chiara Bonomi, lei, anzi facciamo una cosa, Giuseppe Truglia al volo e Ambrogioni, quant'è il preavviso in media che viene dato a un dirigente per essere licenziato? Cioè, cosa capita? Un giorno, un mese, un anno? Beh, Truglia, diciamo che anche un anno via. Quindi la cosa del fax che arriva da domani non ci sei più è una leggenda metropolitana? Quello arriva, diciamo, quelle sono le eccezioni purtroppo. La norma è, ci sono delle regole che abbiamo definito nei contratti che costituiscono lo zoccolo e che va rispettato. Poi ci sono delle aziende che hanno interesse a fare in fretta e a non avere conflitti e cercano degli accordi. Quando lei mi ha chiesto quant'è, io le ho detto un dato reale di riferimento, che è un ammortizzatore, certamente quello, ma il problema è se nei 12 mesi poi uno riesce a ricollocarsi. Questo è il vero problema sul quale dobbiamo lavorare. Ambrogioni? No? Il dato torna anche per noi, però ultimamente stiamo registrando purtroppo che nelle piccole imprese sta venendo un po' il modello americano. Molti dirigenti escono, se va bene, col TFR. Se va bene. Allora, anche qui siamo d'accordo che chi ha guadagnato 70-80 mila euro lordi l'anno è messo meglio di chi ne guadagna 25-30 mila, lo dico a chi scrive. Ma attenzione, perché non è che il concetto della povertà relativa lo applichiamo solo quando fa comodo a noi, o solo quando parliamo di classe media e del danno che ha fatto l'euro al ceto medio dipendente in questo paese. Si applica in tutti i livelli, perché è chiaro che se tu hai uno stipendio di 80 mila euro lordi probabilmente avrai un mutuo più o meno equiparato, e quindi il danno che hai quando vai per strada, vai a spasso, è uguale a quello che hai in termini relativi, ci mancherebbe, se avessi avuto un mutuo più basso con uno stipendio più basso. Allora, Chiara Bonomi, voi che cosa avete ideato? Perché qui c'è un fenomeno pazzesco di manager che la mattina si vestono, si mettono giacca, cravatta oppure gonna e tailleur, e non dicono che sono stati licenziati, cioè fanno finta di andare al lavoro, capito bene? Beh, questo può succedere, è successo, ma è successo perché, proprio come si diceva, non esiste, è difficile l'accettazione sociale, cioè se un manager perde il lavoro è per colpa, se un impiegato o un operaio perde il lavoro è perché c'è stata una fusione. Le fusioni uccidono gli impiegati e gli operai, uccidono anche i manager, cioè i posti vengono tagliati nella stessa maniera. E quindi, diciamo, per un dirigente è molto più difficile stare a raccontare di aver perso il lavoro, cioè diventa, diciamo, socialmente meno supportato. Ma insomma, adesso c'è la pausa per la pubblicità e il meteo, poi mi racconterà per esteso la sua esperienza. Ma voi cosa fate? Cioè, cosa avete scoperto con un breakfast, come si chiama il vostro network nato a Milano? Che c'era gente che andava al bar, avete detto, beh, a questo punto incontriamoci nello stesso bar. No, abbiamo scoperto che, diciamo, parte da un'esperienza personale. Io mi sono trovata come donna dirigente nell'area marketing comunicazione, aver perso il posto di lavoro proprio per un grosso fallimento aziendale. Mi sono accorta che tante persone con ottime competenze, che fino a 2 mesi prima i concorrenti cercavano di portarsi via dall'azienda, si sono trovati a casa, insomma. E allora abbiamo detto, beh, proviamo a metterci insieme, perché la ricetta, un po' la nostra ricetta vincente, più che il gruppo d'ascolto, è quella del networking. Perché il fatto di perdere un posto di lavoro, per chi fa della relazione parte della propria attività, perché un dirigente d'impresa ha anche questo ruolo, mantenere relazioni con fornitori, clienti all'interno della produzione e dei servizi che fornisce, trovarsi fuori vuol dire non avere più una rete di relazioni, e noi aiutiamo i manager a riprendere relazioni tra di loro. Allora, adesso c'è il metro della pubblicità, poi concludiamo questo approfondimento di cui sono molto contento e lo ritengo più che legittimo, capendo che cosa si può fare, perché così come dei dipendenti, gli operai, si dice, beh, riqualificateli, formateli, beh, questo vale anche per i dirigenti, oltre che l'aiuto psicologico, perché so che sia Truglia che Ambrogioni si trovano delle volte a fare anche da psicologi nei confronti dei loro associati. 349-238-6666 per i vostri sms. Dopo il metro, pubblicità, rapidamente il che fare, poi commentiamo la borsa, meno 0,6 Milano, che però è l'unica negativa, le altre hanno chiuso leggermente in positivo. Sette e 40 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Chiudiamo il nostro tema di approfondimento, cioè il disagio in cui si trovano anche i dirigenti. Quando parliamo di retribuzione, lo dico a chi scrive, 80.000 euro si intende il lordo, quindi siamo intorno ai 50.000 euro di netto all'anno, lo dico a chi scrive. E poi una particolarità: è chiaro che i dirigenti nelle dichiarazioni dei redditi sono alti, e perché hanno la busta paga come tutti, la trattenuta è alla fonte. Però, ripeto, andare a questa inutile lotta di classe tra l'operaio che guadagna meno del dirigente, mi piacerebbe, ecco, mettiamola così, avere gli stessi messaggi quando raccontiamo le dichiarazioni dei redditi. Anche qui non ce l'abbiamo con nessuna categoria, però è chiaro che se, ultima dichiarazione, i gioiellieri 18.000 euro lordi l'anno di dichiarazione, i ristoratori 16.000 euro lordi l'anno di dichiarazione, e potrei andare avanti, allora sappiamo che ci sono circa 200, dai 150 ai 200 miliardi di nero in evaso in questo paese. Sicuramente non si può dare la colpa di questo ai dirigenti o ai manager, abbiate pazienza. Cioè, se vogliamo concentrarci su chi gira con le macchine grosse impropriamente perché va del fisco, bisogna rivolgersi da un'altra parte, come spesso abbiamo fatto. Detto ciò, Ambrogioni, inizi e poi facciamo l'ultimo giro. Fate anche da consulenti o da psicologi, e cosa si può fare nel frattempo, perché è inutile sperare che l'attività produttiva riparta subito. Ambrogioni, cosa stiamo facendo? Intanto la ringrazio di queste sue puntualizzazioni. No, ma le faccio con tutti. Solo una cosa: che è bene che tutti i lavoratori sappiano che ogni dirigente versa all'INPS uno 0,30 della propria retribuzione, che alimenta il fondo per la mobilità di tutti gli altri lavoratori, istituto e tutela da cui non ne siamo esclusi, quindi facciamo anche solidarietà effettiva. Detto questo, cosa facciamo? Beh, intanto attraverso il nostro contratto recentissimo firmato a novembre del 2009, noi abbiamo creato, finanziato dal nostro contratto, un sostegno a reddito per i nostri dirigenti disoccupati dal punto di vista economico, ma soprattutto li riorientiamo, li formiamo e paghiamo attraverso il contratto un servizio di outplacement per i dirigenti disoccupati. Questo sta cominciando a funzionare, ma soprattutto facciamo un'altra cosa. Stiamo creando su tutto il territorio nazionale delle società di dirigenti disoccupati che si offrono al mondo delle piccole e medie imprese per prestazioni professionali di alto livello a tempo. Quindi stiamo aiutando il contatto tra dirigenti, portatori di grosse conoscenze e piccoli imprenditori che vogliono crescere. Stiamo presentando queste iniziative a casa delle associazioni imprenditoriali, l'ultima in ordine di tempo a Parma, con un grande successo, perché stiamo vedendo che il piccolo imprenditore ha voglia di sperimentare una buona collaborazione. Allora, andiamo rapidi perché ho la borsa che preme e poi anche altre vicende, tra cui appunto l'ABI con i mutui alle famiglie da un lato e il ministro Sacconi alle 18:10. Chiedo anche a chi rappresenta appunto il manager di terziario, Giuseppe Truglia, che tipo di consulente, di formazione state facendo per aiutare a superare questa nuttata? Beh, io metterei l'accento su questo tema della formazione che ha detto lei. Noi ci siamo dotati 15 anni fa di un centro di formazione dei manager del terziario, come lei ha detto, CFMT, e l'anno scorso abbiamo avuto 10.000 manager in aula, con una crescita nelle partecipazioni del 22% rispetto all'anno precedente. Questo che cosa vuol dire? Che il manager si rende conto che in un mondo che cambia deve acquisire delle nuove competenze e che probabilmente non basta lavorare 12, 13, 14 ore al giorno per tutelare questo patrimonio delle competenze. È necessario anche fare questa formazione che costituisce una risposta a quelle che sono le esigenze dell'azienda. Giovedì noi presentiamo una ricerca che abbiamo fatto, si chiama Terziario Futuro, è una cosa che facciamo da 10 anni e che facciamo ogni 2 anni, dove indichiamo le più grandi tendenze per i prossimi 3 anni. È una grande scommessa, perché finora con la crisi che c'è nessuno si è sbilanciato a fare una proiezione di quello che può accadere, e di qui viene fuori che lo scenario organizzativo nelle aziende è già cambiato, viene fuori che la classe dirigente lombarda e italiana è già cambiata, perché abbiamo più del 23% di giovani sotto i 40 anni, abbiamo il 20% di donne manager nel terziario, quindi dobbiamo prendere atto che i cambiamenti sono già dentro di noi e noi dobbiamo aiutare i manager ad affrontare questi cambiamenti. Sono d'accordo con Ambrogioni sul tema della piccola e media impresa, che può costituire il futuro anche per la presenza dei manager, oltre a queste agevolazioni per la ricollocazione degli over 50. Un dirigente che ha più di 50 anni, che è stato espulso dalla sua azienda, può trovare posto, si riduce il suo salario, ma investe di più sul variabile che è legato ai risultati, quindi è disposto a scommettere con l'imprenditore sui risultati e di meno sul fisso. Mi sembra che siano piccoli esempi che vanno nella direzione di prendere atto che ormai questo tema delle espulsioni non è un fatto limitato, ma è un problema sociale, così come c'è una precarietà per i giovani ad entrare, c'è una precarietà per i maturi nelle espulsioni. Allora, le informazioni sul traffico, poi vorrei sentire anche Chiara Bonomine in concreto che casi ha, e poi passiamo ai mutui degli italiani. E gli italiani che hanno utilizzato l'accordo ABI-Governo per sospendere il pagamento della rata del mutuo e ho cambiato le condizioni delle rate. E poi la borsa 349-238-6666 per i vostri sms, a chi scrive dicendo che dovremmo occuparci anche non solo dei commercianti, ma in generale degli agenti di commercio, la categoria è in difficoltà, avete ragione, tratteremo anche quella categoria, come tutte, il traffico. Allora, Chiara Bonomi, che cosa fate esattamente quando vi incontrate tra manager che hanno perso il lavoro, dirigenti che hanno perso il lavoro, ed è vero che c'è un'attività quasi di consulenza da psicologo, oltre che da, diciamo così. Ma quello, diciamo che noi aiutiamo le persone perché ricercare un lavoro è un lavoro, e di questo c'è poca consapevolezza in Italia, non è una cosa che si fa. Bisogna avere gli strumenti ed essere capaci, quindi noi diciamo siamo un po' i nuovi colleghi di questa impresa di trovarsi un lavoro, ma fondamentalmente partiamo dal presupposto che è ben difficile ricollocarsi esattamente nella posizione in cui si era prima. Cioè, noi lavoriamo molto sulle competenze delle persone e cerchiamo di aiutarci reciprocamente a non rottamare le proprie competenze, ma a cercare di valorizzarle anche in un altro modo, il che vuol dire passare dalla via della consulenza, passare. Ecco, ma è vero, mi scusi Bonomi, ma è vero che molti manager o ex dirigenti espulsi, licenziati, si stanno proponendo come partita IVA, i cosiddetti centauri, mezzo uomo, mezzo. Mi dica. In un vuoto contrattuale difficilissimo, perché se uno apre la partita IVA il giorno dopo non è più ufficialmente disoccupato, non può più accedere alla formazione per i disoccupati, non può più accedere al diciamo anche comunque ai sussidi di disoccupazione, non può più accedere a nulla, però in compenso magari la partita IVA, perché ha dovuto prendere un contratto da 4.000 o 5.000 euro che non poteva perdere, quindi si trova in questo limbo difficilissimo da gestire. Grazie, in bocca al lupo oltre che a voi come Chiara Bonomi, ma a tutti i vostri associati. Ripeto, sono 77.000 almeno i manager, sono 80.000 i dirigenti in Italia, sia nel settore terziario e quindi nei servizi che nell'industria, e stiamo parlando di 9.000 più 3.000, 12.000 persone che hanno già perso il lavoro, che meritano uguale dignità a tutti gli altri, fermo restando che quando vai in cassa integrazione è peggio che quando guadagni 800-700 euro al mese, è peggio che quando tu hai dei soldi da parte, ammesso diciamo che non ci fosse un altro stile di vita. Comunque grazie, in bocca al lupo a tutti, e adesso passiamo alle famiglie, quelle ancora meno abbienti, ossia quelle famiglie, 270.000 famiglie che hanno dovuto andare in banca, sono dovute andare in banca per rinegoziare il mutuo, l'hanno fatto con l'accordo di cui abbiamo già molte volte parlato, reso possibile dall'ABI. Allora, basta però con le polemiche sui dirigenti. Adesso, se vogliamo che tutti abbiano lo stesso stipendio, ci riferiamo a un altro paese, a un altro modello, che mi sembra che la storia abbia bocciato. Il socialismo, il socialismo sovietico ha avuto un'altra definizione. È chiaro che c'è chi guadagna di più e chi guadagna di meno. L'importante è il massimo rispetto, il massimo diritto, garanzie, riqualificazione, e che non si scarichino le colpe di alcuni su altri, ossia, per essere ancora più chiari, che Wall Street e la finanza geniale non scarichi tutta la responsabilità di quello che è successo sul mondo produttivo. Questo secondo me è il vero problema, così come adesso ci sono persone che non sono manager che stanno guadagnando milioni o decine di migliaia di euro speculando sull'euro al ribasso, speculando sul fatto che la Spagna salterà per aria dopo che i vari paesi si sono indebitati proprio per salvare, diciamo, i danni creati dalla finanza internazionale. Vabbè, le guerre tra poveri però ogni tanto sono una tentazione. Comunque, cambiamo radicalmente tema. Dottor Massimo Roccia, responsabile dell'area retail di Avi, ossia l'Associazione delle Banche Italiane, buonasera. Buonasera a voi. Allora, abbiamo il primo bilancio su quante famiglie italiane hanno usufruito dell'iniziativa vostra, e cioè la portabilità del tentativo, lo dico, di arrivare a una portabilità del mutuo o rinegoziando le rate o sfruttando le norme sulla portabilità. Allora... Esatto. Introdotta con il decreto Bersani sulle liberalizzazioni, c'è stato anche un po' di frizione con voi, perché insomma c'era chi diceva no, non stanno rendendo portabile il mutuo e stanno ostacolando la portabilità. Allora, i numeri, così tagliamo la testa al toro. Abbiamo registrato un dato a nostro giudizio positivo, che segnala un mercato dove i clienti si muovono e vanno alla ricerca dei contratti e dei prodotti più convenienti per loro, e cioè 145.000 famiglie hanno rinegoziato il proprio contratto di mutuo, quindi rimanendo nella stessa banca, e 50.000 famiglie lo hanno fatto in base al famoso accordo ABIMEF del 2008 per un controvalore di 20 miliardi. A questo si aggiunge la portabilità, cioè i clienti che hanno deciso di spostare il mutuo da una banca all'altra, che ha interessato 72.000 famiglie e 8 miliardi di euro. Quindi complessivamente quasi 300.000 famiglie hanno ottimizzato, diciamo così, il loro mutuo scegliendo una soluzione per loro più conveniente. Oh, e ogni tanto parliamo di banche anche con buone notizie, perché noi siamo assolutamente laici sui vari settori, ospiti e dipendenti. Avete anche dei dati sulla moratoria, che è una cosa diversa, cioè qui stiamo parlando della possibilità di o spostare il mutuo da un'altra banca o rinegoziare le rate con la banca stessa. E le cifre sì, abbiamo ecco. I dati aggiornati a questa sera, se me lo consentite, della moratoria. Hanno aderito ad oggi 278 banche che rappresentano 28.691 sportelli dei 35.000 del settore, quindi l'85%. La cosa interessante, e credo anch'essa una buona notizia, è che due terzi delle banche hanno offerto condizioni migliorative rispetto a quelle standard dell'accordo. Questo vuol dire che i clienti troveranno nella loro banca, se intendono usufruire di questa sospensione di 12 mesi nel pagamento delle rate, una condizione migliore rispetto a quella generale. Quindi 270.000 famiglie che hanno usufruito delle modifiche delle rate, se ho ben capito, 270.000 famiglie hanno usato o la rinegoziazione con la propria banca o la portabilità, quindi hanno migliorato, diciamo così, il loro prodotto. E poi voi esatto, e poi voi stimate circa 130.000 famiglie che hanno invece applicato la moratoria, cioè la sospensione del pagamento? No, noi stimiamo che circa un centinaio di famiglie potrebbero essere interessate 100.000. A questa nuova misura che è partita all'inizio di febbraio e che si applica nei confronti dei clienti che hanno mutui fino a 150.000 euro accesi per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale. E che non siano in ritardo col pagamento delle rate precedenti? No, possono anche essere in ritardo, nel pagamento delle rate fino a un massimo di 180 giorni consecutivi e questo significa che clienti che si trovano in condizioni di difficoltà, diciamo collegate alla morte del capofamiglia, alla perdita dell'occupazione o all'insorgenza di condizioni di non autosufficienza economica o la cassa integrazione possono bloccare per 12 mesi il pagamento delle rate, diciamo così, superando un periodo di temporanea difficoltà economica. Grazie anche a lei, Massimo Roccia, responsabile area retail dell'ABI. Adesso il GR, poi rispondiamo anche a chi dice: ma insomma, non parlate più di finanza. Vi occupate solo dei problemi, sì, certo, ci occupiamo anche dei problemi. Adesso parleremo di finanza intesa come borsa. Dopo il GR, meno 0,6% oggi Milano, 349-238-6666 per gli sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa, e lo dico visto che abbiamo un pubblico bello, anche perché è vario. C'è chi dice: ma insomma, parlate troppo di disoccupati e poco di borsa. C'è chi dice: parlate solo di borsa e non dell'economia reale. Insomma, cerchiamo di accontentare tutti, e delle volte ci sono temi anche più importanti della borsa che comunque adesso stiamo per fare. Meno 0,5% Milano, non è stata una giornata di quelle, per fortuna, drammatiche né entusiasmanti. Meglio ha fatto Parigi, più 0,15%, Francoforte più 0,2%, Londra più 0,1%. L'America è molto forte adesso, ecco perché cercheremo di capire cosa è successo all'Europa, più 2%. I titoli: Telecom più 3%, Autogrill più 1,6%, Tenaris più 1,2%, Pirelli più 1%, Impregilo più 0,90%, Saipem più 0,7%. Chi ha perso di più? Fiat, meno 2,5% come Exor, ST Microelectronics meno 2,2% come Intesa, San Paolo, Mondadori meno 2%, CIR meno 1,70% come Buzzi Unicem, UbiBank meno 1,3% come Unipol, Bulgari meno 1,20%, l'Automatica meno 1,1% come Generali, Campari meno 0,90%, Enel meno 0,80%, Popolare di Milano meno 0,80% come Italcementi, Eni e Mediobanca perdono lo 0,7%. L'euro si sta rafforzando, è a quota 1,38. Oggi, come sempre, i mercati li facciamo con Radio Corriere, Sole 24 Ore. Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Allora, sono le parole di Almunia, che si è detto molto preoccupato per la situazione e il fatto che l'agenzia di rating Standard & Poor's abbia abbia detto che vedrà al ribasso i voti di Grecia, Spagna e Portogallo, avere penalizzato l'Europa? Sì, diciamo che le borse europee sono state incerte un po' per tutta la giornata, avevano aperto in negativo, poi ci sono forti attese, c'erano forti attese da parte degli operatori di un intervento da parte dell'Europa per salvare insomma la Grecia, per affermare che sarebbero intervenuti in caso di necessità sulla Grecia. Almunia ha un po' gelato queste speranze. D'altra parte le borse hanno sostanzialmente tenuto anche oggi, perché comunque a Wall Street le cose sono andate bene, ha aperto subito positiva e accelerato nel corso della seduta, per cui il risultato che abbiamo avuto alla fine è stata una chiusura negativa per Milano, che ha perso circa mezzo punto percentuale, mentre le altre borse europee hanno chiuso diciamo piatte e non in leggero rialzo. Ecco, va detto che UBS, uno dei colossi bancari europei, una delle banche svizzere che molto aveva perso anche dopo, per via degli investimenti in prodotti derivati ad alto rischio, è tornata oggi con la trimestrale in utile nel quarto trimestre del 2009 e ha rivisto l'utile, un risultato migliore delle attese che però è stato da un lato punito, diciamo così, dalla borsa. Ha perso subito un 3% dopo i risultati. La cosa che ci lascia perplessi, perché sapete che è un nostro cavallo di battaglia, è che come è arrivato il primo utile UBS, dopo aver perso decine di miliardi per via di investimenti che si sono rivelati così scriteriati, ha subito deciso di aumentare i bonus ai manager della banca, li ha aumentati del 34% e praticamente ha messo da parte già 2 miliardi di euro per pagare i premi del 2009. E vabbè, così funziona nelle banche d'affari. Andiamo avanti con i titoli. Bene Autogrill, come dicevamo oggi, Guido, Telecom Italia Autogrill. Allora, per quello che riguarda Telecom Italia, oggi ha guadagnato il 3,05% e sono di nuovo le indiscrezioni rilanciate dalla stampa brasiliana su una possibile fusione con Telefonica a spingere il titolo. Secondo il quotidiano Globo, infatti, l'annuncio di una fusione fra Telecom Italia e Telefonica potrebbe essere effettuato già alla fine di questo mese, dopo i CDA sui risultati finanziari di Telefonica e di Telecom previsti per il 25 e il 26 febbraio. Quindi di nuovo l'ipotesi spagnola. Autogrill? Per quello che riguarda Autogrill, invece, ha approfittato delle buone indicazioni arrivate dai risultati preliminari di Atlantia. In particolare, questi risultati hanno sottolineato come il calo del traffico nel 2009 sia stato molto contenuto, meno 0,4%, e questo in qualche modo ha aiutato il titolo. Pirelli in una battuta? Pirelli in una battuta si riprende dopo i forti cali di queste prime sedute di febbraio, aveva perso circa il 10% per varie ragioni, fra cui anche quella dell'addio alla trattativa con Fimit per l'integrazione fra Pirelli Re e Fimit. Oggi sostanzialmente si tratta di un rimbalzo. Una cosa ancora, Fiat ha perso il 2,5%, ma lì c'è il fatto che Scajola abbia detto poco fa, che il ministro Scajola, che gli incentivi verranno dati, ma questa volta altri settori, non all'auto? Sì, diciamo che subito dopo queste dichiarazioni il titolo ha iniziato a scendere e con Fiat, che ha perso il 2,53%, ha perso anche Exor, meno 2,43%. E invece, proprio per le stesse dichiarazioni, sono salite due titoli che riguardano altri settori che potrebbero ricevere incentivi, quindi elettrodomestici. Mi riferisco a Indesit, che ha guadagnato il 5,60%, e anche la Landi Renzi è andata bene. Grazie a Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore, il traffico. E poi con il ministro Sacconi il tema dell'occupazione, piace o non piace a chi vorrebbe che ci occupassimo solo di borsa, ci occupiamo anche e soprattutto di economia reale, di industria e di chi il lavoro lo sta perdendo. Allora, una notizia appena battuta: il governo tedesco sta preparando un pacchetto di aiuti alla Grecia e domani arriverà il ministro delle finanze del paese Wolfgang Schäuble a darne notizia al Parlamento. Anzi al gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano-Democratica. Lo scrive oggi il quotidiano Financial Times Deutschland. Noi invece torniamo sui temi dell'occupazione, dopo aver parlato degli oltre 9.000 dirigenti che hanno perso il lavoro l'anno scorso tra mondo dei servizi e mondo delle imprese. Adesso torniamo all'occupazione delle imprese, quelle che vedono gli operai manifestare, salire sui tetti e bloccare le strade. Ringrazio quindi per averci raggiunto in collegamento il ministro del welfare Maurizio Sacconi, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Ministro, vorrei arrivare poi al libro che è da poco uscito sul Nord-Est, che mi interessa particolarmente perché anch'io sono di quell'area geografica e poi perché è l'area geografica che ha conosciuto il maggior sviluppo in questi ultimi anni. Partiamo però dalla cronaca. Allora, vicenda Fiat, se ho ben capito la posizione è che la sua e del governo è che la Fiat comunque abbia diritto, come qualunque azienda privata, ad andarsene quando ha detto nel 2011, ma debba garantire continuità produttiva e occupazionale. Questo cosa vuol dire nel concreto? Ma guarda, il collega Scaiola sta cercando di garantire comunque un adeguato sviluppo industriale in quell'area nella quale c'è un sedimento depositatosi nel tempo di una specifica cultura produttiva riferita all'auto e c'è un indotto importante. Anche se Fiat ne critica la dimensione che sarebbe insufficiente per la loro permanenza, però occupa molti lavoratori ed è giusto quindi individuare soluzioni che si rivolgano non soltanto ai lavoratori diretti ma anche a quelli indiretti. Quindi ora continua il tavolo negoziale e continua anche la verifica di possibilità alternative. Dunque, veniamo invece a una vicenda che lei sta seguendo, anche lei, oltre che il ministro Scaiola, sta seguendo da vicino. Mi riferisco agli stabilimenti Alcoa, Porto Vesme e Fusina, quindi provincia di Cagliari, provincia di Mestre, di Venezia. 600 dipendenti a Porto Vesme, 150 Fusina e poi su un gruppo che ha 2500 dipendenti in Italia, gruppo multinazionale americano Alcoa. Lei, se ho ben capito, me lo confermi, incontrerà giovedì proprio i vertici della multinazionale Alcoa con sede a Pittsburgh. È ancora moderatamente ottimista? Lo sono per definizione e soprattutto lo sono con riferimento alla nostra volontà di garantire la continuità produttiva. Quindi è un ottimismo della volontà il nostro, ma credo anche della ragione, perché vi sono tutte le condizioni perché gli impianti rimangano performanti alla luce del provvedimento che abbiamo assunto e che siamo fiduciosi la Commissione europea confermerà. Ultima vicenda e poi veniamo anche ai ragionamenti del suo libro, la vicenda Glaxo. Lei su questo ha avuto un giudizio forse un po' più netto rispetto alla vicenda Alcoa o Fiat, cioè le è sembrata un'imposizione unilaterale. Breve premessa, la Glaxo ha da sempre uno stabilimento. Non sia chiaro che il mio giudizio sulla unilateralità di Alcoa è stato non di meno pesante. No, è vero. Quando un gruppo multinazionale in un paese di consolidato dialogo sociale prende decisioni unilaterali e si limita a comunicarle e non accetta definizione nell'ambito di un tavolo negoziale di possibilità o la ricerca di possibilità condivise, evidentemente si pone in una posizione che il governo italiano non può accettare e che diventa oggetto di critica ferma. Questo però vale anche per la Fiat, non su termini, ma quando ha annunciato la cassa integrazione fine febbraio, inizio marzo per 30.000 dipendenti? Cioè così... Obiettivamente era un atto minore rispetto a ciò che Alcoa e Glaxo hanno annunciato di voler fare, quello di cessare queste unità produttive. Allora, veniamo alla Glaxo, perché spiego anche chi scrive, vedo molti veronesi che stanno scrivendo. La Glaxo ha storicamente lo stabilimento della ricerca a Verona, sono 550 ricercatori, quindi c'è un numero comunque alto di persone che perderanno il lavoro. Però, Ministro, vorrei capire, oltre al metodo, anche la sostanza, perché da quello che noi abbiamo capito parlando con le organizzazioni sindacali della Glaxo, viene contestato al Centro Ricerche di Verona di non aver raggiunto l'obiettivo di una crescita dell'utile del 14%, ma solo dell'11%, che insomma con l'anno che è stato. Insomma, c'è un metodo o anche una sostanza che lei, diciamo, che la lasciano perplessi, per essere eufemistici? Abbiamo rivolto un appello al management delle grandi e meno grandi compagnie affinché siano lungimiranti in questo tempo di crisi. non decidano frettolosamente ridimensionamenti strutturali, soprattutto dell'occupazione, non decidano la rinuncia a professionalità, come nel caso della Glaxo, poi frutto di un'esperienza prolungata nel tempo nell'ambito di attività qualificate di ricerca, ma appunto con lungimiranza non si tarino, non decidano soltanto sulla base delle immediate esigenze di profitto, ma guardino secondo un pensiero lungo alla competitività nel termine più lungo, appunto. Ecco, per chiudere con il caso di cronaca, però mentre mi è chiaro su Alcoa cosa il governo ha proposto di ridurre il costo della bolletta elettrica portandolo a meno della metà, con la Fiat ne abbiamo già discusso, ci sono trattative in corso per arrivare a un passaggio così di consegne nello stabilimento il meno dannoso possibile. A Glaxo voi cosa potreste dire? Convocheremo la società ad un tavolo negoziale con le rappresentanze sindacali e con tutte le amministrazioni interessate, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, dello sviluppo economico e della ricerca. L'intenzione del governo è quella di non accettare acriticamente una decisione unilaterale di questo tipo, di garantire la continuità di un fondamentale centro di ricerca che si è depositato in un tempo lungo con conoscenze, esperienze che non possono assolutamente essere disperse. Ministro, venendo invece al libro di cui poi parleremo anche in maniera più diffusa più avanti, il libro che lei ha scritto con Gianni De Michelis sul dialogo a Nord-Est, che cosa può insegnare come best practice, come caso virtuoso, il Nord-Est al resto del paese? Ma guardi, il libro soprattutto considera il Nord-Est come un paradigma dello sviluppo dell'Italia e dell'Europa, in quanto il Nord-Est si trova oggettivamente collocato in una posizione che lo rende naturale piastra logistica per l'intera Unione Europea, la quale ha di fronte a sé un bivio: il pericolo da un lato di una sorta di rattrappimento baltico, come dice De Michelis, cioè di rattrappimento della sua capacità di sviluppo intorno alla portualità del Baltico, nel momento in cui il Pacifico diventa un fondamentale epicentro del commercio globale, oppure di individuare una propria via ad una nuova fase di crescita fondata da un lato sulle relazioni paneuropee, quelle che in particolare ci devono vedere sempre più integrati con la grande economia russa, e dall'altra parte attraverso l'assunzione di una fortissima dimensione mediterranea, ritenendo che il Mediterraneo possa diventare una vera e propria quarta economia emergente dopo Cina, India e Brasile. In questo ambito il Nord-Est è al posto giusto nel momento giusto, ma deve ovviamente realizzare investimenti che accentuino la sua capacità di attrarre flussi dal sud, dal Mediterraneo, di gestire funzioni direzionali verso un grande bacino che coinvolge l'Europa orientale, di diventare in fondo una grande città metropolitana, non solo per la continuità della residenza e delle funzioni produttive, ma anche per la concentrazione, l'addensamento in alcuni siti scelti di funzioni direzionali. E in questa idea del Mediterraneo, ricordo, riecheggia molto anche quella dello scrittore Matveyevich, di un Mediterraneo come luogo geografico e anche economico. Visto che sia io che lei siamo del Nord-Est, forse è anche più facile criticarlo. Se lei dovesse individuare, per concludere, un elemento invece di debolezza di un modello comunque virtuoso, che quindi va migliorato, va corretto, proprio alla luce anche di questo nuovo ruolo che voi individuate nel libro, quale elemento individuerebbe? Ma si è esaurito probabilmente il policentrismo, quel metodo che pure ha fatto le fortune del Nord-Est. Oggi occorre, come dicevo, anche la capacità di decidere l'addensamento di alcune funzioni, di decidere all'interno di una grande città metropolitana l'inserimento di alcune funzioni terziarie e quaternarie che non possono essere disperse ma devono essere opportunamente concentrate. Questo è il passaggio di paradigma, una terra che per un verso è sempre stata aperta, ecco, deve evitare di rinchiudersi difensivamente nel momento in cui emergono problemi di sicurezza, problemi di integrazione, deve mantenere la propria capacità di apertura, lo spirito di Marco Polo che appartiene alla sua tradizione e ovviamente occorre un'adeguata leadership politica nei prossimi anni anche nel territorio. Quindi non guardare solo al locale, per quanto le risorse, diciamo, identitarie arrivino dal locale, ma con uno sguardo più aperto, e questo ricorda anche un po'... Parla di una necessaria integrazione tra localisti e cosmopoliti, tra due tipologie che utili entrambe, nel senso che è necessario salvaguardare la propria identità, le proprie radici, la propria tradizione, ma come premessa per l'apertura, non per come ragione di chiusura. Bene, grazie. Torneremo a parlarne, perché è un tema, quello dello sviluppo dei territori, della modifica dei distretti, quindi anche e soprattutto il nord-est, che seguiamo da anni. Per ora grazie al ministro al welfare Maurizio Sacconi. Grazie. Eh sì, torneremo a parlarne anche perché ci sarà a marzo il Festival delle Città Imprese, quindi ragioneremo sui modelli produttivi, lo dico, e anche le nuove necessità di politica industriale, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, dice: ma le soluzioni, i nuovi modelli? Beh, in questo momento, dopo aver tamponato la falda finanziaria, si cerca di tamponare la falda occupazionale, è chiaro che in parallelo ci sarebbe importante anche sviluppare le linee di politica industriale per il futuro. Comunque, anche questo sarà un tema, così come i precari della scuola, gli agenti di commercio che perdono il lavoro. Per ora invece è tutto, e quindi nel leggervi l'ultima notizia in breve, cioè che il Consiglio di Gestione di Banca Intesa San Paolo ha deliberato la nomina di Marco Morelli e Gaetano Miciche alla carica di direttori generali. Era una notizia attesa, ma ora c'è la conferma. Vi auguro una buona serata e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.